sono Claudia, lasciate un messaggio e sarete richiamati. Pronto amore, ascolta, non devi dare retta alle cose che ti dicevo ieri sera tramite messaggi. Ascolta, ero ubriaco, non sai che quando io sono ubriaco perdo il senso della ragione. Ascolta una cosa amore, non farci caso, era solo un'idea quella cosa, poi magari se vuoi farla a te, sono altre cose, però tranquillo amore, ritorna da me amore, ritorna da me, ti prego! Da ubriachi inventiamo cazzate e mandiamo messaggi con proposte azzardate e a volte un attimo quando le chiedi di fare a tre un bel po' di porcate. Da ubriachi siamo un po' agitati, forse per colpa del rom, forse per colpa del gin, forse per colpa del rom, forse per colpa del gin. La mattina arrivo a scuola barcollante tipo gru, son talmente messo male che non ce la faccio più, mi aggrappo al pavimento per non cadere giù, a volte un attimo che cadi giù. Molte volte amore che vuol dire, però quando sei sveglio ti viene da svenire, la pagina va giù, ti la vuoi pur sempre al lato, a volte un attimo che vieni lasciato. Qualcuno se ne accorgerà! Mi sono toccato molte volte testicoli io, ma ne sono cosciente, si perdono. Mannaggia le trentenne che palle mietono, a volte un attimo si staccano. Si viaggia come i dannati e scriviamo canzoni con testi azzardati e a volte un attimo che le completi non sai perché piacciono solo a te.